Buon pomeriggio a tutti e tutte, iniziamo questa nostra puntata, salutiamo gli amici del Brancaleone che ci ospitano come tutti i venerdì e come ci ospitano anche il mercoledì per altre attività, ringraziamo Gemini Network e Radio Grad che ci supportano. E oggi puntata finalmente con una bella temperatura, un bel clima, finalmente siamo in mancanza del nostro amico Matteo, mancanza giustificata perché è in quel di Granada per un soggiorno, uno scambio culturale che fra la sua classe, appunto una classe di Granada. Ma con i potenti mezzi di Pirate Radio abbiamo un modo di poterlo salutare anche se a Granada. Puntata ricca quindi di chiacchiere, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche delle varie chat di Pirate Radio su Telegram e iniziamo con il nostro primo pezzo della puntata e poi ritorniamo a bomba qua su Pirate Radio tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Questo è Jolly Roger, abbiamo salutato, iniziato la puntata appunto con i vari saluti, ma un saluto particolare vogliamo fare alla nostra amica Bea, poi passerò il microfono e vi racconteremo anche la sorpresa che abbiamo fatto sia io che Otello ad Alice e a Luca, poi prossima settimana anche a Matteo, ma iniziamo questa puntata. Passo il mic alla mia amica e fedelissima, oltre che essere l'unica figura femminile di Jolly Roger, Alice. Ciao a tutti, oggi vi parlerò di una crema, cioè no, di una maschera viso con argilla e Quindi diciamo che partiamo subito a bomba con la rubrica di Alice sui suoi un'argilla bianca consigli e di pesce bellezza. Napoli. Aspetta un attimo lì così ricominciamo tutto da capo. Pronti? Ok, sì. Allora, consigli di bellezza di Alice. Allora, oggi vi parlerò di una maschera viso con argilla bianca e verde propoli. È consigliata per pelli miste e impure, cioè con brufoli, acne, punti neri. Quindi è una maschera che pulisce, cioè pulisce delicatamente, con degli. Delicatamente la pelle, cioè proprio molto bene In profondità. in profondità e che stringe i pori e regola l'equilibrio della produzione di sebo e rimuove l'impurità e riduce i segni sulla pelle. Uso applicare sul viso evitando il contorno occhi. Dopo 15 minuti si sciacquare con abbondantemente acqua calda. Notizia AMA. In questi giorni hanno iniziato a tagliare l'erba al parco delle Sabine e al parco dei cani di Nuovo Salario. Così possiamo camminare tranquillamente e noi e i nostri cani. Ancora mancano dei pezzi di prato e speriamo che li tagliano il prima possibile. Perfetto, Eli. Per quanto allora ritorniamo un po' sul discorso dei tuoi consigli di bellezza. Guardami, guarda la mia pelle, questa pelle segnata dall'età ormai. Consigli. Va bene anche per me questa maschera che hai detto di cui hai parlato? Sì, penso di sì. Perfetto. Dove la si può comprare? Allora, questa maschera è per il dove il contorno occhi, sì. Ok, dove la posso comprare? La puoi comprare dall'erbolario. Perfetto, prezzo onesto oppure devo andare No, con... all'erbolario proprio. Perfetto. Allora, ora, durante le puntate, a Vanno bene parte... anche quelle per le donne, le maschere vanno bene sia per le donne che per gli uomini. Perfetto, così nel dubbio vado. Ma quelli con la... Quelli con la barba suggeriscono in regia. Se Allora, la quelli devono con la tagliare. barba lo ti chiede se ce l'hanno, se c'ha dentro la barba e la maschera. Ok, quindi. Ok, perfetto. Senti, ora passo un attimino al mio amico Luchino che spoilerà quello che è anche il tema della puntata. Giusto. Così poi vediamo anche tu, Alice, cosa ne pensi, quale sarebbe appunto l'argomento da trattare. Vai, vai. Allora, buonasera a tutti, sono Luca e oggi l'argomento è cosa vorresti creare, quando, dove. Allora, cosa vorresti creare? Allora, Cosa vorresti creare nel senso di un progetto che uno ha in mente e che potrebbe essere la svolta della vita, diciamo. Quindi, Alice, tu cosa vorresti creare? io voglio creare la pasta. Ah, giusto, scusami se ti interrompo. Fuori onda, noi parlavamo appunto di questa cosa qua e tu hai detto a me piacerebbe creare, visto che stai facendo oltre a questo di radio, il laboratorio di cucina, ci hai detto che volevi fare? Che volevo fare Il ricettario di Alice, giusto? sì. E Volevo qui... fare una ricetta con perché volevo proporre lo zucchero senza lo zucchero della misura, senza zuccheri aggiunti, che è buonissimo, che quello E lo potete che cosa ci mettere. creiamo con questo zucchero? Perché quello lo potete mettere, semplicemente lo potete mettere, ve lo consiglio perché è molto buono e fa molto bene rispetto a quello normale. Perfetto, allora andiamo con un pezzo e poi proseguiamo questa puntata di Jolly Roger in attesa, visto che manca Matteo, del nostro amico Lugone che prima o poi arriverà, mezzi permettendo. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo qui in diretta. What you hear other people say. Jolly Roger si parlavano di creazioni, cosa ci piacerebbe creare dal nulla e che possa essere soprattutto utile. Secondo me una cosa che servirebbe, così rispondo anch'io a Luchino, io vorrei inventare il teletrasporto in maniera tale che non c'è più traffico, inquinamento, uno si sposta più velocemente. Cosa ne pensi? Ma appoggi come idea? Beh sì, almeno saltiamo tutto il traffico di Roma, visto che ogni volta c'è il traffico, specialmente sul raccordo che vanno sulla Prenestina e da tutte le parti. Oh, finalmente. Ora, ho portato appunto a nome di Pirate Radio, abbiamo regalato una cosa molto interessante. Ora spoileriamo un attimino. Abbiamo il fumetto che si chiama di Essere bea. Beatrice Tassone, Marco Mardoglio. Perfetto, intanto noi ringraziamo Beatrice che ci ha spedito, Grazie, Bea. Grazie mille. che ci ha inviato la copia di questo suo spettacolare fumetto. Purtroppo ancora non abbiamo letto perché appunto l'abbiamo recuperato ieri, ci è arrivato, quindi felici. Abbiamo il fine settimana da fare qualcosa, visto che è anche bello il tempo, uno va al parco e si porta questo spettacolare fumetto, che è praticamente la storia di Beatrice. Beatrice è una ragazza ipovedente autistica che vive in quel del nord, per essere precisi, vive nella zona di Monza, e con l'occasione saluto Tiziana, la mamma di Beatrice, con la quale siamo in rapporti e ci supporta anche con i like su Facebook ai post di Jolly Roger, ed è un bellissimo fumetto dove racconta, praticamente, cioè disegna oltre che raccontare, che Beatrice è una disegnatrice, secondo me, di altissimi livelli. E è un fumetto appunto che parla della sua storia, almeno così io suppongo, perché da quello che ho capito, e non voglio spoilerare perché ancora lo devo leggere, e soprattutto è un fumetto che è sponsorizzato, cioè, da diverse realtà, quali la Coop. Ma lo disegna con le sue mani? Lo disegna lei, sì, non proprio con le mani, ma con un tablet. Usa il tablet come se fosse un foglio bianco e comunque è tutto creato da lei, perché scusate, ma Alice era presa un attimino dai disegni che obiettivamente, raga, c'è poco da fare, poco da dire. Ha un prezzo che va soprattutto, diciamo, possiamo Diciamo, dire, da Bea, io 8 euro. ero impresa da essere a vedere questi bellissimi disegni tuoi. E infatti, dicevo, questo fumetto racconta appunto quello, leggo quello che scrive Beatrice in copertina. Tre cose non devi fare nella tua vita: chiuderti, chiudere e farti chiudere. È un bel, come motto, è una cosa spettacolare. Prima o poi, a breve, anzi, è un invito ufficiale di Jolly Roger, di tutta la crew di Jolly Roger. Faremo un'altra intervista, perché Beatrice l'anno scorso ci siamo sentiti, abbiamo fatto un'intervista, e l'anno scorso lei stava iniziando il suo percorso lavorativo in quel di Pizzaut, nel nord, e appunto questo fumetto è sponsorizzato dalla Coop Pizzaut, che salutiamo tutti gli amici di Pizzaut. E dove poterlo Della trovare? Potete Coop. contattare direttamente Beatrice sui social, altrimenti non saprei nemmeno io come ordinarlo. Noi, appunto, grazie a Otello che ci ha portato questi fumetti, vorremmo appunto ringraziare e averla anche un giorno qui con noi, Beatrice. Passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Thank you. ciaro cazzo stonk. Un'ingoppa nata, listen to my favorite song. Femme la vita, tuo compagno e tuoi cani non rispondono. Stamma preparata con una mano smersa che nascon. Ramano si con, cazzo tenga tutto. Io tengo tutto, cosa io tengo tutto. Io tengo tutto, cosa io tengo tutto. Io tengo tutto, cosa io tengo tutto. Io tengo tutto, cosa io tengo tutto. Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Parliamo appunto della nostra amica Bea che ci ha mandato questo splendido regalo che è il suo fumetto Essere Bea. Potete acquistarlo, ora mi sono informato, anche su Amazon. Potete contattare direttamente lei. E niente, proseguiamo questa nostra puntata. Il tema era: cosa vorresti creare di originale e soprattutto di funzionale per la comunità, giusto Luchi? Sì, allora io

Perfetto, noi ribadiamo in questo momento che, come sempre, in tutte le puntate, che noi, nonostante la pubblicità ai vari supermercati, non piamo una lira, ma soprattutto manco un bicchiere d'acqua. Detto questo, andiamo con un altro pezzo e poi vediamo un attimino che succede qui fuori onda. Che cosa stai pensando? Oh, mi cade il mondo addosso. Non saprei come rialzarlo. Gli sbirri mi fermano ancora in strada. Mi trattano come un ladro, come se non fossi Zara. La mia innocenza l'ho messa per caso. Non lo so se qualcuno l'ha visto. Sembra nessuno capisca, ormai non mi importa più di cosa è giusto. Vieni a letto, sfondiamo le droghe. Sono pronto per perdere tutto, come un'ultima mano di poker. Io non mi fido di loro, perché mi vogliono fare schiavo. Io non sarò schiavo di nessuno, soprattutto perché non esisteranno schiavi con case intorno. So che pure la mia ombra mi ha fatto da quando sono al buio. Fatto un bel film come fosse vero. Forse devo smettere di essere un boss, è vero. Tutto questo non lo posso, devo freddo con gli altri, ma conta meno. Come sto monte negro, ma sono acquato come il mio cervello, che a volte funziona da volte zero. Ti suono quei tasti, odio parlarci con dei falsi. Ti chiamo dopo, sto nei cazzi. Voglio un castello alla Jacobs. Sono un diamante che hai visto nel fan. Proprio per questo mi fischio degli altri. Io non capisco che parli quando mi dicono il disco dell'anno. Dico che è il disco degli anni. Cosa sai di me? Non me lo ricordo. Sto al sesto caffè, per questo non dormo. Amami come se non esiste, come se c'è fuoco c'è il panico. Fino a finale triste come un lunedì senza dischi di platino. Sono ancora qui. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parla di famiglia. Vedi, come ho detto, noi prendiamo sempre ispirazione dal fuori onda per proseguire questi ultimi minuti di puntata, anche perché siamo in attesa del nostro amico Lucone, che purtroppo causa sicuramente traffico, ancora non è arrivato. Che vogliamo dire, Luchè? E volevo dare un consiglio alla gente se non ha nulla da fare questo weekend, ecco. Che consiglia? Siccome c'è un bel tempo, io vi consiglio di andare verso il centro di Roma e farvi una passeggiata lungo Colosseo, al Trevi e mangiarvi un buon supplì al filo come i romani ai vecchi tempi. Oppure mangiarmi un gelato ai fari romani. come mi ha consigliato Pietro l'altra volta. Voi, siccome questo weekend è pieno di tempo e non c'è zero pioggia e domani faranno 17 gradi, io vi consiglio di andare a fare una passeggiata. Quindi, ottimo di andare a fare una passeggiata. Perfetto, poi stavamo dicendo che mancano, visto che appunto si parlava anche di tempo, delle consuete rubriche, manca il nostro amico Matteo e mancano anche le scommesse per questa settimana, dopo quella che è stata una ricca settimana intensa e anche sfortunata per alcuna parte di tifoseria capitolina, ma non diciamo nulla, giusto Chiara? Ma non diciamo proprio nulla. E nel frattempo mi è arrivato un messaggio, appunto, con i potenti mezzi di Jolly Roger. Ascoltiamo. Ciao Pietro, stiamo a Granada. A Granada, no? Saluti saluti Matteo. Matteo? Ciao Chiara, sta a posto? Papone, papà, saluto. Ciao Pietro, ma? Ciao Pietro, ciao, ciao. Ciao, ciao Pietro. Ecco qua. Spagnolo si deve parlare, capito? Che stessa Granada, devi parlare solo spagnolo. Nel frattempo era partito il messaggio di risposta, ma va bene così. Era un saluto al nostro amico Matteo, che appunto si trova a Granada, e noi andiamo con un altro pezzo e poi proseguiamo con i saluti finali. Che sai? Sì, sì. Se alla fine allora balliamo. Guare, Clementino. Io speriamo che me la cagliamo. Se alla fine allora. La fine arriva presto, penso non ho visto il Messico. Amo droga, soldi e sesso, in prestito ed all'estero. Non capisco il pezzo, scrivi peggio del medico. Mangia una mela al giorno, era inteso in Goya al Macintosh. 38 tocca, già presa da un e-commerce. È il fin della mia vita, leggi i titoli di colpe. Ho un piano per la fine, sesso a tre come i tacosi, ma senza protezioni, tipo un match di Bernacles. Sgamo quando chiacchieri, smetti con i giochi, risolviamo bene, abbracciali. Quando rappo rendo l'impossibile normale, troppo avanti non ci credi, tipo ho fatto sesso prima di mio padre. Se alla fine allora balliamo. Io speriamo che me la cavo. Se alla fine allora balliamo. Io speriamo che me la guai. O microfono saper din dall'universo. E chi rimane depresso in da stu metaverso. La gente non capisce, terrisce diverso. A rop si nucrisce, po' striscia all'ingresso. Il mio sterminato repertorio contro i tuoi platini. Ma di merda ti dedico la mia erba fra. Campione di improvvisazione, il divo in televisione. 12 dischi e 1000 là, tu vai in ripetizione. Piglia appunto, caruti, do fosse fra. Tuo va scuse, refuse, don tu se ca. Tenga musica, accuse, chi non nota. Milano, Napoli, in the city, sai come fa. Se alla fine allora balliamo. Io speriamo che me la cavo. Se alla fine allora balliamo. Io speriamo che me la cavo. Juarez, Clementino, Jena White, Napoli, Milano, El Dio, Coppo Beat. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, siamo arrivati ai saluti finali, siamo ancora in attesa del nostro amico Lucone, ma purtroppo la puntata è alla conclusione. Noi ci riascoltiamo settimana prossima, quindi buon weekend a tutti e a tutte, e ci potete riascoltare tramite podcast e a settimana prossima. Ciao a tutti, sono molto contenta e felice che ci hai regalato il libro. Sono molto molto molto contenta. Ciao a tutti, buon weekend a tutti e salutiamo il nostro caro Matte che sta in gita con